Poi ci siamo amati coi nostri occhi adulti da eterni ragazzini. Poi ci siamo persi così, siamo rimasti da soli. Liberi ma da che cosa poi noi altri? Il nostro amore è stato la somma di quei nostri amori precedenti. Gli amori che verranno saranno dunque sempre più grandi. Il nostro amore infine sarà così di tutti. Noi siamo tutti uguali, per questo ci crediamo diversi. Noi siamo differenti e in questo siamo tutti gli stessi. Col nostro cuore solo che batte al volo il ritmo del tempo. Ma che ci siamo amati, dormiamo tra le braccia del vento. Poi ci siamo alzati dal nostro letto e abbiamo vagato 100 anni. Poi siamo svaniti dal mondo, ma non proprio del tutto, perché il nostro amore vivrà sempre negli altri. Noi siamo più vicini, per questo ci crediamo lontani. E se siamo distanti nel vento, ci sentiamo vicini. Con il nostro amore solo che vola viene il nostro pensiero. In un abbraccio noi che ci siamo amati davvero, davvero. Il nostro amore infine sarà così di tutti. Noi siamo tutti uguali, per questo ci crediamo diversi. Noi siamo differenti e in questo siamo tutti gli stessi. Con il nostro cuore solo che batte al volo il ritmo del tempo. Noi che ci siamo amati dormiamo tra le braccia del vento. Del vento, del vento. Siamo amati davvero, davvero.